Una delle cose che mi sono portato a casa dalla Cina sono stati i proverbi. La sensazione che ho avuto è che i cinesi, come noi, sono al mondo da un sacco di tempo. Solo che noi ci siamo occupati di costruire il Colosseo e di dipingere la Gioconda. Loro, invece, di pensare. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È il 27 di dicembre, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Ve l'ho già detto, qualche tempo fa è successa questa cosa, che io mi sono messo a rovistare nella cantina di casa dei miei. La mia no, perché non ce l'ho e perché ho venduto praticamente tutto. Rovistando in questa cantina, però, ho trovato dei vecchi diari, ma non i diari quelli delle scuole. Quelli sì, li ho trovati, vabbè, ma quelli sono meno interessanti. Anche perché, non essendo mai stato capace di tenere un diario, ho sempre solo appuntato fare esercizio di matematica e prepararsi per l'esame di fisica, per l'interrogazione di fisica. No, parlo di diari di viaggio. Io non ne ho fatti una marea di viaggi, però quando sono stato via mi è sempre venuta la voglia di provare ad appuntare quello che mi succedeva e quello che vedevo, le persone che incontravo. È per questo motivo che, visto che questo è un periodo di vacanza abitualmente tra Natale e Capodanno, anche dopo, però questo è un periodo strano perché è un periodo di vacanza ma in cui non sai cosa fare, non sai se partire, se aspettare la coda del Natale o se aspettare di andare via per Capodanno. Insomma, in questi 5 giorni io ho deciso che vi leggerò praticamente una parte di questi diari, non tutti, altrimenti andremo avanti fino a Pasqua, ma una parte ve li leggerò. Ho cominciato questo gioco purtroppo a casa mia l'altro giorno, il giorno di Natale, per la felicità di tutti quanti i miei parenti presenti al pranzo di Natale. Eravamo a casa di mia sorella e ho cominciato a dire che avrei raccontato di questi diari. Ne ho letti alcuni, sono andato avanti giusto un quarto d'ora perché poi mi hanno fermato, però a un certo punto ho fatto questo gioco in casa con i miei, con mia sorella, con suo marito, con mia nonna soprattutto. Ho detto: provate a pensare a un viaggio che avete fatto, no? Uno dei tanti, uno dei pochi, uno dei viaggi che avete fatto. Quindi mia sorella e suo marito hanno cominciato a parlare di tutti questi posti magnifici in cui sono stati, le Barbados, le Mauritius, la Martinica. I miei invece si sono messi lì e hanno pensato che i posti più belli dove sono stati erano la Sicilia e Cuba, dove erano andati tipo 15 anni fa. E mia nonna, ovviamente la migliore di tutte, il posto migliore in cui è stata è stato Finale Ligure. Insomma, chiedendogli di parlare di queste cose, di questi viaggi, gli ho chiesto: facciamo così, provate a pensare a una cosa bella che vi ricordate e a una cosa brutta che vi ricordate di quel viaggio. E le cose che sono venute fuori erano abitualmente il tempo, no? Cioè quando pioveva era la cosa brutta. Invece le cose belle erano sempre diverse, però la cosa strana è che la cosa che rimaneva in mente, anche senza chiederlo, era esattamente quella lì. Cioè di quando si fa un viaggio ci si ricorda abitualmente due cose o due categorie di cose: le cose belle e le cose brutte. Una o due cose, massimo. Per cui mia sorella mi ha raccontato che quando sono stati in Martinica, sì, la casa era meravigliosa, il posto era magnifico, ma la cosa più bella che gli è capitata è stata di vedere uno squalo dal vivo, e da una barca ovviamente, non dall'acqua. La cosa più brutta è che pioveva. La stessa cosa hanno detto i miei genitori a Cuba. Sì, a Cuba, no, è che c'era un po' di povertà, ma poi soprattutto ha piovuto per 3 giorni. Mentre la cosa più bella che mi hanno raccontato i miei era questa guida, una ragazza cubana bellissima che era medico e che per tirare su dei soldi faceva la guida ai turisti occidentali. E poi mia nonna sempre la numero uno, sosteneva che la cosa più bella che ha visto a Finale Ligure era il mare. La cosa più brutta che invece ha visto a Finale Ligure, si parlava di credo 60 anni fa, sono state le cozze. Non ho capito se è stata male dopo averle mangiate o cosa. Comunque, la cosa più bella e la cosa più brutta. Nei diari che vi racconterò durante questa settimana ci saranno più di una cosa bella e più di una cosa brutta. Sono diari che ho scritto quando sono stato in 5 posti diversi. Sono diari che riguardano gli Stati Uniti, in particolar modo New York, e poi dei viaggi invece che ho fatto in Oriente, in India, in Giappone, e poi ce n'è invece uno che riguarda la Svezia. Nemmeno la Svezia in particolar modo, ma un'isola della Svezia, che è un'isola che si trova nel Mar Baltico e si chiama Gotland. Insieme ai miei diari, nella seconda parte del programma ogni giorno ci saranno i vostri diari, quelli che vi avevo chiesto e che mi avete mandato a iosonoqui@radio24.it. Sono diari di viaggio, sono diari di estate passate insieme o con degli amici, e sono invece anche diari di piccole esperienze che hanno in qualche modo rappresentato un viaggio per voi. Se ne avete ancora, se non l'avete ancora fatto, oppure se li avete scritti di recente, potete mandarmeli. Io sono qui, @radio24.it. Domani si va in Svezia, oggi invece si va in Cina. Pechino, aprile 2008. Chissà com'è successo che ad un certo punto l'uomo è diventato l'essere più evoluto della Terra. E chissà se poi è vero che l'uomo è l'essere più evoluto della Terra. Ad esempio, le zanzare, no? Loro hanno capito che il sangue è la cosa più nutritiva che ci sia. Noi che siamo più evoluti di loro, mangiamo la carne per fare il sangue. Loro no. Le zanzare, dico. Loro non mangiano, non parlano, non si sposano, non sono ambiziose. Loro succhiano il sangue a noi. A noi che mangiamo la carne, che parliamo, che ci sposiamo e che siamo ambiziosi. Chi è più evoluto? Noi o loro? Sono allo zoo di Pechino. Sono davanti alla gabbia del panda gigante. Che poi non è una gabbia. Praticamente è un giardino pensile con la piscina, gli alberelli e una capanna. Roba che ci vivrei io in questa gabbia. È vero, l'uomo non è mai stato messo in uno zoo. Secondo me lo zoo dovrebbe essere un posto in cui ci sono tutte, ma davvero tutte le specie che abitano la Terra tenute qui, in cattività. Allora sì che avrebbe un senso. Invece no, gli zoo sono dei giardini nemmeno troppo belli, in cui ci sono tre tigri, qualche scimmia, parecchi orsi, uccelli variopinti e qualche volta una giraffa. Il tutto condito da una puzza che non saprei neanche definire. Un misto di piscio e fieno, una roba davvero vomitevole. Beh, comunque per essere gigante, il panda gigante è veramente gigante. Adesso, ad esempio, è in mezzo a un canneto e sta mangiando delle foglie. Certo che alla fine questo fa una vita da papa. Non lo so, sarà perché è in estinzione, ma non gli manca veramente niente. Secondo me lui lo sa, che sono rimasti in pochissimi, e quindi se ne approfitta. Leggo su un cartello che si chiama Yan Yan, il panda, dico. Sta mangiando delle foglie di bambù che me le mangerei io in insalata. Lascio il panda alla sua solitudine dorata e mi avvio verso l'uscita. Non mi piace questo posto. Non so, c'è un'aria che oltre ad essere viziata è anche di desolazione. Sì, lo so che la maggior parte di questi animali nemmeno sanno che esista un loro habitat naturale. Però a me vederli qui fa tristezza. Forse non lo so, forse esagero io, eh. Forse lui sta semplicemente vivendo la sua vita di panda, credendo che quel giardino sia il mondo. Mi è venuta fame. Il bello della Cina è che ovunque tu sia, c'è sempre qualcuno che sta facendo da mangiare. Vedo un baracchino con una signora cinese che arrostisce dei gamberi. Lascio il panda alle sue foglie e vado a mangiare. Shanghai, aprile 2008. Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Se disegni male una tigre, questa assomiglierà a un cane. Non è possibile applaudire con una mano sola. Ogni contrario ha un suo contrario. Sto leggendo il capitolo dei proverbi cinesi. Certo che sono geniali. D'altra parte questi qua, come noi, sono al mondo da un sacco di tempo, giusto? Solo che noi ci siamo occupati di costruire il Colosseo, di dipingere la Gioconda e inventare il vino. Loro, di pensare. Beh, comunque la parte vecchia di Shanghai è decisamente bella. Praticamente è sul delta di un fiume che si chiama Changyang. Ad ogni angolo della strada ci sono baracchini con cinesi che cucinano e cinesi che mangiano. Perché i cinesi mangiano sempre. Poco, però mangiano sempre. Niente, non riesco a scrivere molto in questi giorni su questo diario. La Cina sembra troppo grande, sembra troppo piena, troppo in movimento per potermi fermare ad appuntare le cose. Lo riesco a fare solo quando mi fermo a mangiare o in albergo, prima di addormentarmi completamente stordito. Hong Kong, maggio 2008. Siamo arrivati ieri qui a Hong Kong. Vista dal 25° piano della mia stanza d'albergo, potrei essere in qualsiasi megalopoli del mondo. Questa città sembra non avere niente di interessante. Non mi va di uscire, e quindi non lo faccio. Ora sono sdraiato sul letto king size. La temperatura di questo missile, che poi è l'albergo nel quale sono, si mantiene costante sui 25 gradi. Considerato che per terra c'è la moquette, fa veramente caldo. La TV ha un satellite che vede tutti i canali del mondo. È incredibile. Adesso sono sintonizzato su Rai 2. C'è una signora del Trentino Alto Adige che fa vedere tutte le cose che ha cucinato. Prendo in mano la mia guida per vedere se c'è qualcosa che valga la pena vedere. Eppure quello che pare interessante veramente non è là fuori, è più qui dentro. Trascrivo testualmente. La globalizzazione è entrata ormai nel nostro quotidiano. Cuciniamo su fornelli italiani immaginati a Milano e costruiti a Wenzhou. Dormiamo in lenzuola indiane, su letti disegnati in Svezia, realizzati in Slovenia e rassettati da colf bulgare. I libri sono scritti in Italia e stampati in Cina. I film sono tratti da libri inglesi, scritti da ucraini, girati con attori francesi, in cinecittà cinese da registi statunitensi. Eppure, noi continuiamo a guardare i popoli che vivono in città diverse dalle nostre come esseri mitici. Quando però diventiamo noi l'oggetto leggendario, percepiamo quanto gli stereotipi ingabbino in spazi da cui è difficile uscire. Love in Sicily è una soap opera che va in onda tutti i giorni sul terzo canale più importante della Cina ed è uno dei programmi più seguiti all'ora di pranzo. La vicenda narrata è una crisi matrimoniale vissuta da una coppia italo-cinese, o meglio, siculo-cinese. In un serial televisivo in 26 puntate girato tra Catania e Hangzhou, dal titolo Kingsy Xixili, che vuol dire Love in Sicily. Sono sintonizzato sul terzo canale, sto guardando la sigla di Love in Sicily. Praticamente le figure principali di questa soap opera sono quattro. Sono una coppia in crisi, costituita da un marito cinese e da una moglie italiana, e i rispettivi genitori, la madre del marito e il padre della moglie. A condividere le vicissitudini di tutta la vicenda c'è poi un bambino italo-cinese, Jacopo. Jacopo è la vera star della serie. Jacopo è il personaggio ponte tra le due nazioni e le due culture. I suoi occhi sono quelli dello spettatore, che condivide tutte le sue sofferenze, i suoi dubbi e le sue difficoltà nel capire il mondo. Ancora Hong Kong, maggio 2008. Sì, lo so, sembra assurdo, però questa storia della soap cinese ambientata in Sicilia è la cosa che più mi ha preso di questo viaggio in Cina. Allora, Xiao Zhu, il protagonista, è un uomo tranquillo di carattere, dalla buona reputazione. È impulsivo e ha una forte ambizione professionale. Ignora i sentimenti della moglie ed è solito essere freddo, apatico rispetto alla solitudine della donna. L'unico suo rimorso sta nel vedere poco il figlio, Jacopo, che infatti vizia senza ritegno. Lidia Biscari, invece, è la moglie di Xiao ed è una sognatrice. Non è ancora entrata del tutto nella cultura e nella vita cinese. Si sente ignorata dal marito e quindi comincia a provare nostalgia di casa, della sua Sicilia, ovviamente. Ed ecco che compare un vecchio amore siciliano, che la informa che il padre è malato. Lei, in gran segreto, parte per la Sicilia e si porta via anche Jacopo. La signora Xiao è la madre del protagonista. Lei è una donna semplice, è buona, molto competitiva, è efficiente, affabile. Dell'Italia non sa nulla se non che è uno stivale sul planisfero, dove ci sono i fascisti, la mafia, l'Inter e Firenze. Mario Biscari, invece, è il padre di Lidia. È un vecchio. È un nobile inflessibile, asociale, egocentrico e testardo. Trascorre il tempo ogni giorno nel suo palazzo, tra musica d'opera e vino. Prima di incontrare Jacopo, il nipote, la sua vita non aveva scopo e non aveva senso. Era un decadente depresso. Ecco, Jacopo gli dà una seconda vita. Mario vuole fare di lui un nobile. E poi, ovviamente, c'è Jacopo, che da quello che dice qui la mia guida è impersonato dall'attore italiano Jacopo Cirino, diventato famoso per aver interpretato a 4 anni Wai Gu Xiai Xi Zhang Gu Ba ed in seguito Modeng Yai Ting. In entrambe le opere recitava la parte di un bambino che, per diverse motivazioni, si trova ad avere una famiglia italo-cinese. Questo ha fatto di lui il prototipo del sino italiano, sebbene il bambino in realtà sia semplicemente figlio di italiani. Ecco, è vero, no, che le soap sono solitamente a lieto fine e ovviamente Love in Sicily non fa eccezione. Shao e Lydia torneranno insieme e Mario e la signora Shao si innamoreranno a loro volta. La doppia coppia si sposa su una nave Costa Crociere e salpa per il Mediterraneo in viaggio di nozze, consapevole che quello è il suo ultimo contatto con la magica Italia. Andranno tutti a vivere nella moderna Cina, dove Shao Ju coinvolge anche la moglie nelle sue scelte lavorative. Il principe Mario e la signora Shao gestiranno insieme la casa da tè della donna, coltivando il comune amore per l'opera di entrambe le nazioni, ovviamente Italia e Cina. Tutti felici, anche se la lasciano la bella Sicilia, dove, se marito e moglie litigano, è il maschio che deve riconoscere per primo il suo errore, dove le donne hanno sempre ragione e dove gli uomini le rispettano anche se hanno successo, e dove infine la gente vive felice e spensierata, mentre sente musica e beve vino, come in una moderna isola utopia. Ora, a voi non sarà mai capitato di vedere Love in Sicily, ovviamente perché viene trasmesso in Cina e probabilmente ci vuole una parabolica, una parabola per andare a beccarlo, o magari vi è di sfuggita in qualche ristorante cinese. Comunque, io andrei a vederlo se fossi in voi. Andrei a vederlo su YouTube, è facile, si trova. Non tanto per la storia, non tanto per le facce, quanto perché veramente, quando si diventa luogo comune, no? Quando si diventa quella parte di roba che gli altri pensano che noi siamo, allora si capisce anche che cosa accade quando noi affibbiamo un luogo comune a qualcun altro. Mi ricordo che quando dovevo andare in Cina ne avevo parlato con degli amici e loro mi dicevano: ma in Cina, ma i cinesi sputano? Ma come i cinesi sputano? Sì, sì, certo, i cinesi sputano. Ecco, quando sono arrivato là e ho visto Love in Sicily, ho un pochettino capito che cosa si pensa dell'Italia quando si pensa al vino, all'opera lirica e alla Sicilia. Insomma, Love in Sicily lo trovate sicuramente su YouTube. Questo era il primo diario che vi racconterò in questa settimana. Questo era il diario che riguardava la Cina. Domani ci sarà la Svezia, e poi ci sarà l'India, e poi ci sarà New York, e poi ci sarà il Giappone. Adesso invece c'è la borsa, e come al solito, dopo la borsa, torniamo perché io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. Estoy aquí. Nella foto siamo in mare, siamo per l'esattezza su un gommone, direi. Il mare è molto tranquillo, il cielo è azzurro, il mare anche. Però il vero protagonista della foto è un ragazzo, direi, che è sbattuto sulla prua del gommone, ha su una muta, ha su una maschera e delle pinne da sub. Quindi direi che è reduce da un'immersione. Vorrei capire se era in apnea o se era con le bombole, ma soprattutto dove si trovava. Leonardo Terrosi, 34 anni. Sono a Daedalus, in mezzo al Mar Rosso, dopo un'immersione per vedere gli squali martello. Io sono qui. Le foto di tutta questa settimana sono dedicate agli ascoltatori che erano in giro, in viaggio, e potete continuare a vederlo ovviamente su radio24.it, alla pagina Io sono qui, perché probabilmente l'avrete capito, ma tutta questa settimana che sta tra Natale e Capodanno è dedicata ai diari di viaggio. La prima parte è dedicata ai miei diari e la seconda parte ai vostri. Oggi apriamo con un ascoltatore, che è un ascoltatore assiduo, che ormai conosciamo perché un po' in qualche modo ha anche frequentato questi studi, e leggeremo a brevissimo il diario di Emanuele Vicentini. Pronto Emanuele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Ti disturbo Emanuele? No, assolutamente. Senti, tra poco leggerò il tuo diario, però prima di cominciare a leggerlo, mi dici velocemente di cosa si tratta, dove eri quando l'hai scritto e quale estate era? Era l'estate di 2 anni fa, e si trattava di un lungo viaggio in macchina dall'Emilia fino alla Sicilia con degli amici, a trovare degli altri amici e ricordando le altre persone che non potevo vedere durante quella vacanza. Senti, il cuore del diario è quello di fare una vacanza lenta. Mi dici in due parole che cos'è per te una vacanza lenta? La vacanza lenta è il ritmo della mia pancia. Io mi sono reso conto di essere una persona estremamente lenta se mi viene lasciato vivere il mio tempo, e per cui quando sono in vacanza cerco di riconciliarmi col mio ritmo. Emanuele, guarda, ti ringrazio e farei una cosa, partirei subito a leggere il tuo diario. Grande, ciao Matteo. Ciao Emanuele, grazie ancora. Emanuele, agosto 2008. E così succede che cominciano le vacanze lente, quelle da passare almeno per metà attorno al proprio cortile, completamente alla ricerca dei ritmi e dei ritrovi della preadolescenza. E subito cado nel dolce pensiero di chi, tra i miei amici più cari a cui rivorrei parlare, non sento da un po'. 3-4 persone al massimo, che mancano all'appello da un po' troppo tempo. Coincidenza. In pratica, mentre le penso, due di queste mi chiamano in sequenza. E con loro finisco con il progettare un tratto delle mie vacanze lente, appunto. Col tempo che rallenta, ma è ancora troppo corto e le parole troppo lunghe per quelle poche ore, pranzi, giornate e cene. Sempre troppe idee, troppe persone che è necessario rivedere o conoscere. Quel senso della conversazione in pillole che un anno di lavoro ha lasciato sotto pelle e che fatica ad andarsene. Ma poi, poco a poco, ce la faccio. Mi tolgo le scarpe, mi spettino. E ritorno nel mio tempo della pancia. Dovrebbe essere sempre così, che si piglia la macchina e si fa il punto della situazione della propria vita, un po' come si facevano i conti dal bottegaio, su un foglietto con la penna all'orecchio. Fatto, fatto, fatto, mi manca ancora questo e questo, lascio da pagare qualcosa, ma tanto li passo. E non li faccio da solo, me li faccio fare. Se poi tutto questo è condiviso, proprio vissuto insieme con le persone giuste, beh, allora è sempre la prova del 9. Poi altre coincidenze che proseguono. Lungo il crinale della mia mano e dell'Italia, in questo agosto pieno di stelle cadenti e di film e di cene sotto ad un falò o in piazza, a Zorz alla fine l'ho anche detto. Secondo me potremmo vivere insieme tra un po', come in una comune. Perché è troppo bello vedere che tantissimo ci accomuna e che a volte basta stare insieme per ricreare quell'essenza che ognuno contribuisce a creare. Quelle idee riprese con Ale che tra mille progetti ci rimangono in testa e forse un pochino prendono corpo. E così succede che si finisce in Toscana, poi in Sicilia, risalendo lungo il filo delle necessità di contatto, di parole e grande musica condivisa per tutta una vita. Si ritrovano le persone giuste al momento giusto, all'ombra di una barca arenata. Si nutre la mente con quasi tutte le sette arti. Dovrebbero farlo durare un po' più a lungo, questo agosto lento. Hanno davvero capito tutto giù in Bhutan, che per loro l'unico indice che conta non è il PIL, ma il Gross National Happiness. Ho conosciuto due persone interessanti che mi piacciono e questo è sempre il sale per me. Ho finalmente imparato a fare qualche complimento al momento giusto, quando lo sento per davvero. Ho messo una firma su un atto del comune ed è uscito uno sgorbio che mi tremava la mano dall'emozione. In bocca al lupo per la vostra vita, ragazzi miei. E poi succede così. Succede che finiscono le vacanze lente, con il lascito di una nuova consapevolezza. In queste giornate limpide, per me, è forse ora di ripartire. Perché, o meglio, forse un po' sì, forse perché il 27 di dicembre sembra fare sempre un po' più freddo degli altri giorni, forse perché è appena passato il Natale e sembra ancora un po' distante il Capodanno, non lo so, però anche oggi sembra fare un po' più freddo del solito e alla fine dei diari che mi sono arrivati a Io sono qui, @radio24.it, alla fine ne ho scelti due che parlano di estate. Il primo, quello che vi ho appena letto di Emanuele, riguarda proprio la lentezza delle vacanze, la voglia di passare quelle vacanze così lente. Quello che invece sto per leggere è il diario di Marco, che è il diario di un'estate della gioventù, credo dei suoi 15 o 14 anni, mi pare di ricordare. E racconta di quello che accade spesso nelle estati della nostra gioventù, no? Che ha a che fare con l'incontro di una persona dell'altro sesso e ha a che fare quindi con l'amore. E questo diario, più di ogni altro, il diario dell'estate del 1992, testimonia di come tutto, a distanza di tempo e di spazio, sembri sempre più dolce. Marco, agosto 1992. È l'ultima settimana di agosto, tra un po' si rientrerà a scuola. Io ho solo un pensiero fisso. Questo pensiero fisso ha un nome e un volto. Kim. È una meravigliosa ragazza 17enne, sudafricana, bionda, magra e con due occhi azzurri da far impazzire qualsiasi uomo. Ci siamo conosciuti al mare. I suoi zii sono i miei vicini d'ombrellone. Mi avevano parlato di lei, ma non la immaginavo così bella. Dopo un mese e mezzo di scherzi con la sabbia e tuffi dal pattino, mi ha confidato di essere innamorata di me. Ma io me ne ero già accorto, perché quando ci si innamora in due, è difficile nasconderlo all'altro. Ci siamo baciati di notte, durante i fuochi d'artificio che chiudono la stagione estiva. Lei mi ha chiesto di partire con lei, ma io ho solo 15 anni. Una scuola da finire e troppe cose da fare e da dire a tante persone. Certo però che lei è davvero bella, e io non riesco a guardarla negli occhi mentre gli espongo i miei dubbi. Lei si lascia scappare una lacrima e mi sento affogare. Il Sudafrica è lontano, noi siamo una famiglia modesta e non credo che potrò mai volare dalla mia Kim. So già che mio padre, alla richiesta dei soldi per andare a trovare la mia amica, mi risponderà che ha le bollette da pagare e spese più importanti del mio viaggio, e poi il Sudafrica è troppo lontano. La scuola sta per iniziare. Kim mi ha salutato con un bacio e una carezza. Mi ha detto che mi ricorderà per sempre. E io volevo piangere, ma non potevo farlo. Che figura avrei fatto davanti a lei? Ma è stato più forte di me. E sono scoppiato in lacrime. E lei, abbracciandomi, mi ha detto: è per questo motivo che mi hai rubato il cuore. Lei è volata lontana, ed io ora sono qui, con i miei libri, i soliti amici, la solita vita. Guardo sul libro di geografia quanto è lontano il Sudafrica. Quanti soldi ci vorranno per arrivare fino a lì? Grazie a Marco, grazie a Emanuele per i racconti delle loro estate. Se volete mandare i vostri diari, io sono qui, @radio24.it. Grazie soprattutto a quelli che hanno reso possibile anche oggi, anche il 27 di dicembre, questa puntata, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bolini e Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?